edizione. Le 6, 17 minuti, 40 secondi. Buon giovedì da Anna Migliorati, prima edizione, le pagine dei quotidiani che questa mattina puntano l'attenzione non solo sulla situazione italiana ma anche sulla crisi di altri paesi, e non il Portogallo, non la Grecia, bensì la Germania, che ora comincia ad avere i suoi timori. La Stampa, cominciamo da qui questa mattina. Crisi, trema anche la Germania, asta flop per i Bund tedeschi, invenduto il 35%. Cosa è successo? Borse giù anche a Milano, meno 2,6, e Barroso che oggi dice sì agli Eurobond, e oggi Monti incontrerà Merkel e Sarkozy. Ora Berlino dovrà riflettere, il commento di Stefano Lepri questa mattina sulla Stampa. Stessa apertura scelta dal Messaggero: la crisi investe la Germania, va male l'asta dei titoli di Stato tedeschi, Merkel però che continua a dire no agli euro bond. Berlino paga il suo egoismo, il focus sul Messaggero. Il Sole 24 Ore, anche qui l'attenzione puntata su quel che sta succedendo in Germania, il mercato punisce i bond, borsa impecchiata e Berlino sotto tiro, fallisce l'asta tedesca da 6 miliardi, i decennali balzano al 2,08% dall'1,98%. Un commento severo questa mattina anche sulle prime pagine del Sole 24 Ore: il re è nudo, l'euro e la Germania, il commento di Guido Tabellini. Così il Sole 24 Ore. Attenzione più puntata invece sull'Italia, ancora per il Corriere della Sera e la Repubblica. Corriere della Sera: misura anticrisi, corsia veloce. Il fronte italiano racconta dell'accordo con i presidenti di Camera e Senato, del presidente del Consiglio Monti, per una corsia più veloce per le misure anticrisi che dovrebbero arrivare. Patto governo camere. Ed eccola la prima misura anticrisi, ne abbiamo parlato: anticipo IRPEF, arriva il taglio. Così il Corriere della Sera. La Repubblica: allarme BTP, pressing su Monti, vertice da Napolitano, Palazzo Chigi accelera e Berlino non vende i bond. Così la Repubblica. Da il Sole 24 Ore, a proposito del conto IRPEF che dice ridotto per cercare di rilanciare i consumi almeno in vista di Natale, vi segnalo la guida: tutti i risparmi in arrivo. Che succede sostanzialmente? A novembre il prelievo scenderà dal 99 all'82%, ci sarà un acconto più leggero, vale a dire che se oltre alle buste paghe da lavoratori dipendenti si denuncia altro, si pagherà meno a novembre, si pagherà di più a giugno, e quindi almeno per qualche mese ci resterà qualche soldo in più in tasca. Quanti? Li calcola oggi la guida del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che riporta a centro pagina un'altra notizia, un altro tema su cui è alta l'attenzione, che trovate un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani: Guarguaglini verso l'uscita, nuove accuse al presidente di Finmeccanica e alla Grossi, e tra martedì e giovedì il CDA decisivo, scrive Sole 24 Ore. Nelle carte ENAV la rete con tutti i favori, le tangenti ai politici. Così il Sole 24 Ore, un po' tutti i quotidiani, il pressing a questo punto su Finmeccanica e su Guarguaglini. Lo scrive anche la Repubblica: Finmeccanica, il governo liquida Guarguaglini, oggi e domani il CDA gli ritirerà le deleghe. Impietoso il commento sulla Repubblica: la caduta dell'ultimo boiardo che Letta ha sempre difeso. Così su la Repubblica. Stesso centropagina anche per il Messaggero: pressing su Finmeccanica, vertici verso l'azzeramento. Altre notizie in primo piano oggi: l'alluvione che vi abbiamo raccontato anche noi ieri mattina ampiamente in Sicilia, il dramma delle alluvioni e la proposta del ministro, il centro pagina oggi del Corriere della Sera: svuotare le zone a rischio. 3 morti in Sicilia, il Quirinale chiede prevenzione, il neoministro Clini dice vanno vuotate le zone a rischio, ne parleremo anche noi più avanti questa mattina. Altra notizia dalla Stampa: sciolta nell'acido, processo azzerato, il giudice va al Ministero. La notizia è quella secondo cui dovrà ricominciare il processo milanese per il delitto di Lea Garofalo, la pentita della 'Ndrangheta sciolta nell'acido. Il giudice milanese infatti è stato chiamato al Ministero e quindi tutto ricomincia. E poi la situazione internazionale: gas Nervini contro la folla in piazza Tahrir, Egitto, la denuncia di El Baradei. L'immagine è davvero impressionante, quella che trovate sulla prima pagina della Repubblica di questa mattina. Ma un piccolo sguardo prima di parlare d'altro, lo diamo anche ai giornali internazionali, perché dicevamo l'attenzione è puntata sul vertice a Strasburgo oggi tra Francia, Germania e Italia con Monti, ma con la Germania che a questo punto è ben più coinvolta nella crisi dopo quel che è successo ieri ai Bund tedeschi. E allora uno sguardo alla stampa tedesca, il Der Spiegel di questa mattina: euro salvataggio, Merkel contro il resto d'Europa, questo il titolo del quotidiano tedesco, che scrive: dovrebbe essere un segnale di unità l'incontro tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy con il nuovo primo ministro italiano per discutere del debito record di Roma, ma minacciano invece di contestare l'emissione di nuove obbligazioni in euro, e a questo punto il vertice rischia di diventare un'alleanza contro la Germania. Così i timori della stampa tedesca per l'incontro di oggi. Chiudiamo questa breve rassegna stampa, come sempre poi l'approfondimento anche dalle pagine interne dei quotidiani con Alessandro Milan, che ci aspetta attorno alle 7:20 per parlare invece del Calcio Show ieri sera a San Siro. E allora, Calcio Show, dicevamo, ieri sera il Milan ha perso contro il Barcellona, ma è stato spettacolo. Grandi Milan, troppo Barça, così il titolo della Gazzetta dello Sport. È stato davvero così. In tribuna ieri sera c'era il nostro Dario Ricci, che ne ha parlato con Aldo Serena. Il cuore di San Siro, la tribuna stampa, Milan-Barcellona è finita da pochi istanti, qui con Aldo Serena, grande ex del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Torino, della Nazionale, oggi commentatore per Mediaset. Beh Aldo, non ce ne vorrà Fiorello se diciamo che per noi calciofili il più grande spettacolo dopo il weekend è stato questa sera a San Siro, eh? Sì, abbiamo visto grandi giocate, grandi gol, quello di Boateng secondo me è più bello della serata, un Barcellona che non ha giocato in maniera stellare come a volte fa, ma è sempre una grandissima squadra. Abbiamo visto in campo però un giocatore di gran lunga il più forte di tutti al mondo, perché quando tocca palla Messi veramente lo stadio si illumina. C'è stato quell'assist straordinario per il gol di Xavi, palla col contagiri, ma anche di più, difficile raccontarlo con le parole. Sì, soprattutto non fa mai cose banali, quando ha la palla ha una leggiadria nella conduzione, gli avversari sembrano dei birilli, è un giocatore di un altro pianeta. Beh, detto un Barcellona che non hai visto al massimo, vuol dire che hanno anche dei margini di miglioramento? No, vuol dire che secondo me il Milan questa sera ha giocato in maniera diversa dal Camp Nou, ha giocato cercando di andare in avanti con più giocatori, e il Barcellona era partito a tre nel primo tempo e secondo me aveva lasciato degli spazi importanti, sfruttati forse non al meglio in quell'occasione, forse un patto del primo minuto sarebbe stato più opportuno, anche se per la verità nella seconda parte il brasiliano quando è entrato non ha fatto molto. Sì, forse hanno deluso proprio gli attaccanti del Milan, Robinho, Pato, lo stesso Ibrahimovic, malgrado il gol hanno fatto parecchia fatica, eh? Sì, Ibrahimovic nel primo tempo ha fatto qualcosa di interessante, aveva un'intensità di gioco che nella seconda parte non ha messo in campo. Robinho ha sbagliato un gol incredibile da pochi metri, è passo un po' condizionato, ma il Barcellona nella prima parte aveva un atteggiamento difensivo non di gran copertura, aveva spazi molto ampi, c'era la possibilità di andare in avanti a far male, e ha avuto il Milan varie occasioni. Qual è il messaggio che questo Barcellona lancia alla Coppa dopo questa partita di San Siro? Quanto pesa questa vittoria nell'economia dell'intera Coppa? Beh, pesa, perché il Barcellona dà la dimostrazione sempre di essere una squadra fortissima, di avere in avanti soluzioni variegate, di essere brava nella copertura a metà campo. Questa sera ha cercato vie nuove con la difesa a tre contro una squadra forte come il Milan, e secondo me l'esperimento non è propriamente riuscito. Forse in vista Champions League il Barcellona deve guardarsi in casa dico Spagna, perché il Real Madrid sta crescendo. Migliore e peggiore in campo, visto che stai facendo già le pagelle? Beh, io metto Messi su tutti, perché veramente è un giocatore unico. Dalla parte rossonera Boateng, perché ha fatto un gol strepitoso. Ti chiedo ancora, questa sconfitta invece quanto può pesare sul proseguo della stagione del Milan? Ci eravamo lasciati col 2-2 del Camp Nou, che era stato letto anche come una sfida iniziale al potere del Barcellona, invece questo 3-2 casalingo quanto pesa? Beh, io penso che non pesi più di tanto, perché pur pareggiando a Barcellona, il Milan aveva dato un segnale di resa per quanto riguarda il gioco, aveva lasciato giocare il Barcellona e si era posizionata davanti alla propria area di rigore. Qui ci sono state dei tentativi di andare in avanti e mettere in difficoltà una squadra forte come appunto quella catalana, quindi io, sotto il profilo del gioco, il Milan viene fuori meglio da questa sconfitta che dal pareggio di Barcellona. Grazie Aldo Serena per essere stato ospite di Radio 24. Grazie a voi. E grazie, allora, per concludere, ringraziamenti anche al nostro Dario Ricci ieri sera in tribuna a San Siro. Prima edizione. Le 6:34 minuti è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina da Radio 24, vi parla Daniele Biacchessi. Sabato scorso a Cremona, una notizia che è stata ripresa da tutti i giornali: un pensionato di 79 anni viene ucciso, investito dopo aver osato protestare contro il proprietario di un SUV. Un imprenditore in pensione che aveva occupato il parcheggio per disabili assegnato a sua moglie proprio sotto casa. A volte, per raccontare certe storie, bisogna raccontarne altre del passato, come fa oggi Maria Luisa Pezzali. Ci sono storie che non bisogna smettere di raccontare, per non dimenticare, perché non si ripetano, perché abbiano giustizia. A Milano un taxista in coma lo hanno picchiato per aver investito un cane. Era il 10 ottobre del 2010 quando Luca Massari, 45 anni, tassista, veniva picchiato brutalmente in largo Caccia Dominioni, quartiere Stadera, periferia sud di Milano. Morì dopo un mese di coma. Era sceso dal taxi per scusarsi dopo aver investito involontariamente un cane che aveva attraversato la strada improvvisamente. Prima pugni e calci, poi una ginocchiata in fronte così violenta da farlo cadere a terra e sbattere la testa contro il marciapiede. Michael Ciavarella, leggiamo nelle motivazioni della prima sentenza di condanna arrivata sul caso, decise di intervenire avendo di mira un pestaggio, ma accettò il rischio di uccidere. Fin qui la cronaca di un fatto che ha colpito tutti. Disegno, destino o sfortuna che sia, la spiegazione se c'è sta in quello in cui ciascuno crede, noi oggi vogliamo raccontarvi chi era Luca. Chi è Luca nel ricordo della mamma Francesca, che abbiamo incontrato e convinto a parlare perché la sua storia e le storie come la sua non siano dimenticate. Metteva allegria sia quando arrivava, sia di giorno quando era sul lavoro. Che mi telefonava, mi mandava i video, guarda mamma, mi faceva sempre sentire presente nella sua vita, sempre, sempre, sempre. Poi, cosa vuol che le dica? Era un ragazzo che non ha voluto fare il militare perché lui le armi non le voleva, è più di 20 anni che non mangiava carne perché lui aveva un rispetto. Poi una mamma, è facile parlare bene del figlio, ma però lui era davvero speciale per me. Che cosa le raccontava Luca della sua giornata, del suo lavoro? Ma tutto, tutto. C'è stato un momento che c'è stato un diluvio, ma mi ha fatto un video. Qui mi sembra di essere a Venezia, mamma, guarda qui, guarda lì. Signora, lei ha potuto parlare con gli aggressori di suo figlio? Vi siete mai guardati? No. Per me è solamente il pensiero che le hanno messo addosso le mani a Luca. Nessun perdono per me. Però io dico, queste persone capiscono quello che hanno fatto a loro e a mio figlio. Questo mi faccio una domanda. Sabato 19 novembre a Cremona, Guido Gremmi, 79 anni, pensionato, viene investito e ucciso da Angelo Pelucchi, 72 anni, imprenditore incensurato a sua volta in pensione. Aveva osato protestare perché quest'ultimo, con il suo SUV, aveva occupato il parcheggio per disabili assegnato a sua moglie sotto casa. La storia di Luca Massari deve servire a non dimenticare, a non smettere di farci domande. Avete ascoltato Italia in controluce, torniamo oggi 13:30, Radio 24. Grazie. grazie Daniele Biacchessi. Nel frattempo 6:38 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Torniamo con Prima Edizione invece e andiamo in Sicilia questa mattina, non per parlare della situazione dell'alluvione di ieri, perché ne parleremo invece tra pochissimo, ma andiamo invece a Termini Imerese. Saluto il sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dal 1970 Termini Imerese era associata alla Fiat. Termini Imerese, il paese della Fiat in Sicilia. Da oggi cambierà tutto, perché verrà prodotta l'ultima auto Fiat, e poi Termini Imerese cosa sarà? Il paese di, sindaco? Dicevo, voi siete il paese della Fiat, eravate fino ad oggi, sarete fino ad oggi il paese Fiat in Sicilia. Oggi si produrrà l'ultima auto, da domani Termini Imerese a cosa sarà associato? Come dire, da prima ad un dramma, sicuramente il countdown che è iniziato nel giugno del 2009, quando l'amministratore delegato di Fiat ha detto che andava via da Termini, ha messo in piedi 30 mesi di lunga e estenuante trattativa. Oggi ancora possiamo dire che saremo sicuramente la città dell'ex tutte blu, abbiamo dinanzi un altro percorso che ci porterà, speriamo, a produrre e a continuare a produrre auto grazie alla DR Motors che verrà a Termini Imerese, ma al contempo abbiamo la necessità, in questi mesi li abbiamo utilizzati anche per pensare ad altro, ed è la cosa che ci fa più rabbia. La vocazione di questo territorio era ben altra, lo stabilimento Fiat è a 20 metri dal mare in una fascia di litorale bellissima, sacrificata e messa a servizio di Fiat. Oggi Fiat va via, stiamo cercando di riappropriarci della nostra identità culturale. A Termini ci sono delle significative acque termali, ci sono dei reperti archeologici di primo profilo, sono stati sempre, come dire, messi da canto per fare spazio al sistema, al miraggio industriale. Oggi vorremmo tentare di continuare a fare auto con DR, ma riprendere queste ricchezze che sono state mal utilizzate fino ad oggi. Fra 30 anni vorrebbe che Termini Imerese fosse associato ad altro? È questo un po' diciamo l'occasione nel dramma? Vorrei poter essere certo che questo processo di reindustrializzazione che abbiamo scritto in queste settimane, in questi mesi, fosse davvero forte e capace di radicarsi per continuare ad avere una vocazione industriale, perché l'industria in Sicilia è una cosa quasi marginale, e per cui perderne un pezzo senza dare una continuità sarebbe davvero un dramma. Però sono al contrario convinto che stia in qualche maniera, forse tardivamente, risvegliando da una parte le istituzioni a fare quelle opere di qualificazione infrastrutturale che servivano a questo territorio, e dall'altra parte, come dire, nella comunità, nel sentire della gente c'è questa voglia di riprendersi ciò che per tanto tempo non è stato considerato utile ai fini della ricchezza del lavoro. E ripeto, un turismo di nicchia, non un turismo di quantità, perché abbiamo delle cose, abbiamo delle risorse che ci portano non a grandi numeri, ma a numeri possibili. Ribadisco il termalismo e il turismo culturale e archeologico, e dall'altro lato pensare che tutto questo processo possa servire per far maturare in questa città la logica anche di una cultura di impresa che purtroppo non abbiamo. Questa mattina guardavamo le immagini degli operai che entravano per l'ultimo turno, facce scure ovviamente, e i commenti erano: dobbiamo salutarci, dobbiamo voltare pagina, 35 anni di lavoro in Fiat e oggi i saluti, saluti amari. La Fiat vende, lascia simbolicamente per un euro. Cosa significa questo euro per voi? 35 anni di esperienza a Termini Imerese vale un euro? Ma io penso che, come dire, non è certo l'euro che fa rifletterci, ma ci fa riflettere il fatto che in questi anni Fiat è stata così tanto brava da catalizzare le attenzioni di tutti i governi di ogni ordine, di colore e di segno partitico, è riuscita a far sì che questo stabilimento come dire, fatto la gran parte con soldi pubblici, sia diventato un bene nella sua disponibilità grazie alla giusta voglia della regione siciliana di non fare imprese e quindi di metterlo a servizio di Fiat. Questo stabilimento nasce con un'addizione Sicil Fiat, poi negli anni 70 venne dato nelle mani di Fiat, che ne ha fatto sicuramente uno stabilimento importante. Io dico che anche questo territorio ha avuto tanto da Fiat, cioè ci sono state punte massime di occupazione di 4.500 lavoratori impegnati. Ed è anche vero che ogni 27 per noi il PIL si muove anche grazie al sistema stipendiale di Fiat, che certo è garantito fino ad oggi. È chiaro che tutto questo noi non l'avremo più, e pensavamo, e siamo ancora convinti che Fiat lo possa fare, lo deve fare, che non si può liquidare un territorio riconsegnando ciò che noi sentiamo per certi versi nostro. Non è una gratuità che Fiat sta mettendo in campo. Noi addirittura, come dire, in maniera abbastanza sommessa, pensavamo che ci fosse questo quid in più che potesse accompagnare davvero questi 600-700 lavoratori alla pensione e che quantomeno li traguardasse dal futuro. E questo è quello che ci diceva prima, perché nel frattempo sarete il paese sicuramente del dramma, almeno per tutte queste persone. Sarete anche però un po' un avamposto, quello delle auto cinesi in Italia, un mondo che va al contrario. Che effetto le fa? Sarete di nuovo un simbolo in qualche modo? Io penso che, come dire, siamo dinanzi ad un progetto ambizioso. Sembra davvero un sogno l'idea che dopo avere fatto un'esperienza importante, ma certo non significativa nei numeri, come quella di DR Motors, che aveva strutturato un sistema di vendite che si basava sulla grande distribuzione, sulla capacità di far arrivare le scocche nei porti di Genova e di Livorno per poi assemblarle definitivamente in Molise per poi rimetterle di nuovo in mercato, era un'esperienza. Tentare di fare la cosa esattamente contraria, cioè quella di reperire in tutte le parti del mondo la componentistica al prezzo migliore, tentare di utilizzare il vostro stabilimento, un'altra frontiera, un'altra sfida, certo. Da oggi si parte, comunque in qualche modo Termini Imerese volta pagina. Grazie al sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato. Comunque sia, come dicevamo, anche la giornata di oggi fa in qualche modo la storia. Grazie, buona giornata. Grazie. Prima edizione. 6:48 minuti, saluto il prossimo ospite, vicepresidente dell'Ordine dei Geologi di Sicilia, Carlo Cassaniti, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Piove questa mattina, com'è la situazione innanzitutto? Ma sostanzialmente ancora nei territori del Messinese la situazione è abbastanza critica, nel senso che le macchine della protezione civile stanno cercando di rimettere un po', come dire, in ordine quanto è successo ieri, ma ancora a quanto ci risulta dai nostri contatti con la protezione civile regionale e nazionale, insomma, i lavori sono in corso. È vero che ieri alcune persone le avete convinte voi a lasciare le loro case ed evitare altre vittime? Ma diciamo che non è semplice in certi momenti, in alcune frazioni di secondo si cerca in qualche modo di convincere le persone non tanto a lasciare le case, ma quanto proprio ad abbandonare quelli che sono i propri territori, diciamo, da questo punto di vista l'effetto emotivo è molto forte. Per cui, ecco, effetto emotivo che ieri ha amplificato il ministro dell'ambiente Clini, sicuramente. Leggo dal Corriere della Sera questa mattina, ma l'abbiamo raccontato anche noi a Radio 24. La proposta del ministro: svuotare le zone a rischio. Non c'è più altro da fare, bisogna cominciare ad agire sul territorio svuotando le zone dove non si sarebbe dovuto mai costruire. Per la Sicilia è davvero l'unica possibile soluzione? Ma più che una soluzione, diciamo, è un aspetto che a noi geologi preoccupa un attimino, nel senso che non si può con un colpo di bacchetta, come dire, allontanare migliaia di persone dai propri centri abitati che magari sono stati popolati da centinaia di anni. Sicuramente ci sono ormai situazioni insostenibili, piccoli comuni come quelli del Messinese che diciamo nel passato si sono concentrati appunto lungo un corso d'acqua, poi magari lo hanno in qualche modo, come dire, abitato anche sopra, tombando questi torrenti. Sicuramente questi centri saranno nel futuro soggetti a problematiche tipo quelle di ieri o tipo quelle del 2009 di Giampilieri. Delocalizzare è sicuramente una delle soluzioni, ma non può essere applicata come dire, come regola, va studiato. Bisogna cancellare la storia di un paese per spostare interi abitati. Lei capisce che non è facile, e soprattutto non sarebbe giusto, come dire, applicare una regola a questo processo. Sicuramente vanno studiati caso per caso, e quindi vanno condotti nuovi studi. Sicuramente i modelli sono cambiati, è cambiato anche, come dire, l'assetto climatico. Non ci aspettavamo noi quest'anno questo cambio repentino di precipitazione, che non ha riguardato solo voi, per cui a questo punto davvero ci chiediamo cosa ci aspetta ancora in questo autunno. Il problema non è un problema della Sicilia, lo abbiamo segnato già da anni, è un problema di tutto il territorio nazionale. Tra l'altro ho appena appreso che l'emergenza si è spostata anche nelle regioni della Calabria, la Puglia, insomma tutto il sud Italia. Per cui, ripeto, la nostra proposta, tra l'altro abbiamo apprezzato anche la presenza del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Interno ieri qui a Messina in prefettura, la nostra proposta è quella intanto di iniziare subito un percorso virtuoso insieme, ma soprattutto cercare di ottimizzare quelle che sono, come dire, le strategie per il governo del territorio, quindi un'unica cabina nazionale, portare proprio l'Italia a un'emergenza per il dissesto idrogeologico. E pertanto dico, da un lato l'apertura anche del capo dello Stato, del presidente Napolitano, ci fa ben sperare, dall'altro ci rendiamo conto che non è un problema molto semplice e che si risolverà, diciamo, in un batter balero. E ci vorranno molto lavoro. Grazie nel frattempo, grazie anche per gli aggiornamenti di questa mattina. Qual è la situazione? Ve lo racconteremo anche tra poco in GR24. Grazie al vicepresidente dell'Ordine dei Geologi di Sicilia, Carlo Cassaniti. E noi ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato. C'è però GR24, naturalmente ci risentiamo tra poco con le ultime notizie. Restano Peter Bescapè e Viola Bottoni. Da Anna Migliorati, buona giornata. Tra poco le ultimissime di GR24.